Natale, mi piace un bordello, non riesco a pensare. Troppe sensazioni, io provo per lei, le vorrei parlare ma non riuscirei. Non chiedo di sposarla né di averla tutta mia, soltanto avere il tempo di riempirmi gli occhi di lei. Riempirmi gli occhi di lei. Riempirmi gli occhi di lei. Mi sono innamorato di lei. Lei mi rende felice, lei mi fa stare bene, il mio cervello è occupato ed è solo pieno di lei. È solo pieno di lei. Pensa quante volte l'ho vista passare, poterla vedere per me è fondamentale. Mi manca il coraggio di avvicinarmi a lei, sto quasi per parlare quando ne se ne va. Perché vorrei gridare una cosa su di me, se solo ci riuscissi viverei che vivo di lei. Viverei che vivo di lei. Che vivo di lei. Mi sono innamorato di lei. Lei mi rende felice, lei mi fa stare bene, il mio cervello occupato ed è solo pieno di lei.